La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, eccoci amici, ci siete tutti, questa è La Rosa Purpurea, questa è l'ora di cinema settimanale di Radio 24, come sempre il sabato e la domenica per raccontarci e raccontarvi un po' quel che c'è di nuovo in sala al cinema, visto che stanno arrivando, qualcuno dice finalmente, i primi freschi, chiamiamoli così, non sono proprio freddi, ma insomma la lunga estate sembra finita, il cinema potrebbe tornare proprio da questo fine settimana a rimacinare quel numero di spettatori che è chiaramente figlio delle stagioni più fredde, anche se, come vedremo dagli incassi, qualche film sta godendo anche di questa lunga estate. È una settimana con un numero spropositato di uscite, molti titoli mandati al macello, poi con distribuzioni sempre meno capillari, un po' un peccato perché qualche titolo meriterebbe più pazienza e più tenitura per poter essere visto da un numero adeguato di persone. Noi come sempre abbiamo fatto le nostre scelte, ve le riepiloghiamo nei titoli di testa. Mai sovvertire i voleri del destino. Ce l'ha insegnato la saga horror di Final Destination, giunta ora al quinto capitolo. Ancora un manipolo di amici che scampano a una tragedia per una premonizione, ma la morte non è contenta e uno a uno se li va a riprendere. Questa volta in 3D. Un apologo sul vero senso della fede e della carità, con il rigore visivo di un maestro come Ermanno Olmi. È Il villaggio di cartone, che dopo la prima veneziana arriva nelle sale di tutta Italia per raccontare, contro le convenzioni, cos'è oggi la solidarietà. È la settimana di Mia Wasikowska. L'Alice delle meraviglie di Tim Burton arriva nelle nostre sale nel nuovo film di Gus Van Sant, L'amore che resta, nei panni di una giovane malata terminale che affronta il trapasso abbandonandosi all'amore. La vediamo poi nei panni di Jane Eyre, l'eroina di Charlotte Bronte, in una nuova versione cinematografica al fianco dell'attore del momento, Michael Fassbender. Un po' Tuzzi, un po' Truffaut. È Tomboy, il film su una ragazzina di 10 anni che si finge maschio per farsi accettare nella ruvida banlieue parigina. Ma un'amica si innamorerà di lei, che crede un lui. Opera seconda di Céline Chammat, premiata nei festival di mezzo mondo. Alla morte non piace essere presa in giro. Come ha detto? Che dovrebbe significare? Adesso state tutti attenti. Ok, grazie per il consiglio. Tipo inquietante. Mai scherzare con la morte, perché la morte sa come venirti a cercare. Il motto è il solito, quello che da 5 film ha fatto diventare quella di Final Destination una vera e propria, un vero e proprio filone, giunto appunto al quinto capitolo che si rivelerà una sorta di prequel. L'assunto è il solito, una grande tragedia alla quale scampa un drappello di giovani amici, i quali uno a uno cominciano a cadere come mosche, ovviamente nelle situazioni più crudeli e sanguinolente. I protagonisti di questo capitolo lavorano in un'azienda che si chiama Presage, e già questo è tutto un programma, e un giorno il loro boss, anche un po' aguzzino, si inventa un viaggio di lavoro di un paio di giorni per fare squadra. Per arrivare alla meta devono oltrepassare un ponte ancora parzialmente in costruzione con il loro pullman. Uno di loro, Sam, ha una premonizione: il ponte crollerà e moriranno tutti. Si sveglia di soprassalto, è ancora su quel ponte, ma le cose accadono come nel sogno. La stessa musica, le stesse parole del collega, bisogna scendere subito. Subito dal pullman, grida Sam, seguito con riluttanza dagli amici e da qualche collega. Solo loro si salveranno. Il ponte cadrà e sarà una strage. Ma la morte ha i suoi bilanci da tenere in pareggio. È il losco coroner che spiega la filosofia. Avete imbrogliato la morte. Quindi avete fatto sì che la morte prendesse qualcun altro al vostro posto. Qualcuno che avete sostituito nel regno dei vivi. Gli avete preso tutti i giorni e gli anni che gli restavano da vivere. E loro hanno preso il vostro posto nella morte. È un pareggio di bilancio. Uno dopo l'altro, dicevamo, la ginnasta Candy si incappa in un incredibile incidente di palestra, lo strafottente Isaac in una sessione di massaggi non proprio rilassante, la bellissima Olivia in un'operazione agli occhi dove il laser fa quel che vuole. Ok, le metto delicatamente la testa in posizione e voglio che mi dica quando la sente ferma. Non posso muovere la testa. Perfetto. Sembra che la mia assistente mi abbia dato un file incompleto. Torno subito. Un momento, se ne va! È normale quello che sta succedendo! È chiaro, la morte segue uno schema che è quello del sogno di Sam e i superstiti devono cominciare a guardarsi le spalle non solo dal fato, ma anche dagli amici. Non mostra segni di stanchezza il plot ormai rodato ma non usurato di Final Destination per la seconda volta in 3D. Un plot che non necessita di geni né dietro la macchina da presa, dove questa volta c'è Steven Quayle, già collaboratore, come vedremo, di James Cameron, né davanti, dove si muove un cast di giovani pressoché sconosciuti. Perché in fondo basta cambiare la disgrazia iniziale. La prima volta fu un incidente aereo al quale i protagonisti scampavano, appunto salvati dalla premonizione, poi ci fu un camion che perdeva il carico di legname, una montagna russa in libertà, il crollo di una tribuna dell'autodromo. La riuscita dipende dalla capacità del regista di imporre un ritmo sostenuto alla narrazione, di usare bene gli effetti speciali, e Steven Quayle ha supervisionato quelli di Avatar, quindi qualcosa dovrebbe capirne, ma soprattutto di creare suspense preparando il terreno mortale a soluzioni che poi non si verificano, ma che costruiscono attorno al fatale decesso un'atmosfera di attesa davvero riuscita. Tutti ingredienti che Steven Quayle riesce ad assicurare. In fondo, quando sai che i protagonisti dovranno morire, diventa più importante vedere come. E questo era Final Destination 5, la prima proposta, la prima novità di questa settimana per quanto riguarda le sale italiane. Diamo un occhio a quello che succede in classifica, dove, incredibilmente, non l'avrei mai detto, lo ammetto, dominano da 4 settimane i Puffi. Sì, certo, quando era uscito il film poteva essere una novità, eccetera, ma adesso ancora è stato il più visto del weekend passato, del weekend scorso. Ha superato ancora una volta il 1 milione di euro nel weekend e si avvicina ai 10 dall'inizio del suo sfruttamento. Possiamo già dire che è stato un successo oltre le previsioni, anche visto e considerato che è uscito praticamente proprio nei primissimi giorni di settembre. Al secondo posto si colloca, ma sotto il 1 milione di euro di incasso, e per un primo weekend e per una commedia italiana è un po' poco, Baciato dalla fortuna. Terzo, L'alba del pianeta delle scimmie. Al quarto posto Drive, il film da non perdere fra quelli che ci sono in sala, assolutamente, film di qualità con una distribuzione meno massiccia rispetto ad altre pellicole, ma insomma un film che ha cominciato abbastanza bene, forse era lecito attendersi di più e il film sicuramente lo meriterebbe. Poi seguono Blood Story e Dangerous Method di David Cronenberg, che abbiamo recensito la scorsa settimana e che è il film con la migliore media per sala, e anche questo è un dato sempre molto importante perché significa che quei cinema che lo propongono si riempiono, e poi chiaramente il passaparola di solito fa partire tutta un'altra storia distributiva. Settimo posto per Pedro Almodovar con La pelle che abito. Ottavo per Carnage di Roman Polanski, altro film da non farsi sfuggire prima che la distribuzione se lo porti via. Chiudono la top 10 due flop di questo inizio di stagione, ma come fa a far tutto che non ha ancora raggiunto il 1 milione di euro, pensate, nonostante tutto il battage che c'è stato, e Box Office 3D, il film di Ezio Greggio, che invece veleggia intorno ai 2,5 milioni, ma ha ormai praticamente esaurito il suo sfruttamento. La rosa purpurea. Sei nuovo? Sì, siamo arrivati ieri. Io sono Lisa, tu come ti chiami? Michael, mi chiamo Michael. Ehi! Lui è quello nuovo della palazzina C. No! Dai, dai, dai! Preso! Bravo! Laura, esci dal bagno! Ecco le prime parole, un estratto importante di questo film che si intitola Tomboy, il nuovo film di Céline Chammat. E avete sentito proprio, abbiamo voluto montare insieme i due modi in cui questa bambina viene chiamata. Michael, 10 anni, maschio, che poi è Laura, 10 anni, femmina. Qual è l'identità sessuale di ognuno di noi? Perché la riconosciamo e a volte magari no? Per Laura, bambina androgina, bellissima nei suoi occhi azzurri, nei capelli corti e biondi, è stata un'occasione, una domanda di una coetanea, l'avete sentita, Lisa, quell'estate che Laura si era appena trasferita nella periferia parigina con i genitori amatissimi, una sorellina complice, una famiglia felice, senza problemi. Perché Laura, alla domanda di Lisa, come ti chiami, aveva risposto Michael. Prima per gioco, perché le era venuto così, perché con quei capelli dritti e il fisico che non denunciava ancora alcuna rotondità di giovane donna, poteva anche stare. E allora via negli eterni pomeriggi d'estate a giocare a pallone, correre per i boschi, a zuffarsi coi coetanei. Ma in fondo era come se qualcuno avesse schiacciato un bottone segreto, quello della sua identità sessuale. Se n'era accorta quella volta che, sopraffatta dagli sguardi di Lisa, l'aveva baciata sulla bocca. Lisa pensava che a baciarla fosse stato Michael, e la cosa era andata avanti per un po', fidanzatini come lo si può essere a 10 anni. Ma prima o poi un episodio che facesse emergere la verità doveva arrivare. La verità del corpo, perché quella dei sentimenti non era affatto cambiata. Hai detto a tutti che sei un maschio. Perché l'hai fatto? Stella, tutti per uno, ora questo tomboy. Da qualche anno il cinema francese, memore della lezione di François Truffaut, ha ricominciato a raccontare i bambini e a farlo sono soprattutto registe, come la Sylvie Verheiden che in Stella aveva tracciato uno splendido ritratto di una preadolescente alle prese con una realtà ruvida e tosta nella provincia francese degli anni 70. E come adesso Céline Chammat, origini ebraico-italiane, che torna sul tema dell'identità sessuale già affrontato dal suo precedente Water Lilies, e lo fa con una misura e una delicatezza davvero rare. Non è facile indugiare sulle nudità del corpo imberbe di una ragazzina, su un bacio saffico così acerbo, scrutare dal di dentro i pensieri di una piccola donna senza mai travalicare il limite della decenza e soprattutto del voyeurismo. A questo prodotto lavorano in maniera determinante la bravura, ma anche la natura della piccola protagonista Zoe Heran, senza la quale, parole della regista, il film non sarebbe stato possibile. Il suo sguardo pulito conduce lo spettatore per mano nell'attraversamento della linea d'ombra di Laura, che è poi l'accettazione di quel che si è, con il proprio corpo fuori e i propri sentimenti dentro. È arrivato il momento di giocare, è arrivato il momento di misurarci, di misurarvi con il nostro gioco che ogni settimana, attraverso tre tracce molto brevi di un film che rimane misterioso fino alla settimana successiva, vi chiede appunto di cimentarvi con le vostre conoscenze cinematografiche e di provare a vincere un film quasi sempre ormai in Blu-ray, in alta definizione, lo è anche questa settimana. Siamo già pronti al pieno di mail, perché quando si gioca con certi titoli questo avviene rigorosamente. Allora cominciamo subito ad ascoltare la prima traccia di oggi. Quindi capisci che non possiamo andare da soli, tu e io. Il rituale richiede una vittima. Se avete già indovinato di che film si tratta, dovete scriverci titolo completo e vostro indirizzo di posta, come sempre per accelerare poi le operazioni di spedizione, a larosapurpurea@radio24.it. Più tardi vi daremo altre due possibilità. Le atmosfere davvero intime create dalle musiche del film Il villaggio di cartone. Stiamo parlando di Ermanno Olmi, stiamo parlando del ritorno in sala di un grande maestro con un film di finzione, lui che aveva detto che non avrebbe fatti più, si sarebbe dedicato solo ai documentari, invece eccolo qui di nuovo a Venezia a prendersi gli applausi, a misurarsi con gli spettatori e a raccontarci ancora una volta una storia di quelle che ci fanno davvero poi riflettere, ci fanno pensare, ci fanno ragionare attorno a quello che siamo. Una chiesa sta per essere sconsacrata. Davanti alla sofferenza del vecchio prete arrivano gli operai con le loro gru e tutti gli utensili del caso, tolgono gli addobbi, caricano le panche, tirano giù dal soffitto il crocifisso a grandezza naturale, poi se ne vanno, lasciando il sacerdote nella più cupa disperazione. La chiesa è vuota, la luce plumbea, fuori piove e dentro anche, come se il Padre Eterno avesse smesso di proteggere con la sua lunga mano quel luogo una volta sacro. È in quel momento che nell'edificio irrompe uno sparuto manipolo di immigrati. Sono clandestini, senza fissa dimora. Arrivano con i loro cartoni che utilizzano insieme ai materiali di scarto lasciati dagli operai per costruirsi il loro piccolo villaggio, simulacro di una città che non li vuole. Il prete assiste alla scena prima guardingo, poi capisce che quella è una grande occasione. In quella struttura ormai priva di orpelli si potrà mettere in scena la solidarietà, quella vera, che si basa sulla comprensione e sulla capacità di ascoltare l'altro. Devo tenere tutto in mente. Tutto. Come in questo istante. Mio Dio. Gli elicotteri sono quelli della polizia che cerca questi migranti che si sono rifugiati in questa chiesa ed è proprio in quel momento che avviene la decisione da parte del prete di recedere dai suoi propositi, che erano quelli quasi di smettere di vivere per questo sfregio della sconsacrazione della chiesa, invece di andare ad aiutare questa gente, ad ascoltarle, a mettersi decisamente dalla loro parte. Che grinta questo maestro indomito che risponde al nome di Ermanno Olmi, uno dei registi più bravi ed influenti della storia del cinema italiano, uno che ha vinto Cannes con L'albero degli zoccoli, Venezia con La leggenda del santo bevitore, uno che è rimasto a letto 7 mesi per una brutta caduta e che a 80 anni ha fatto carta straccia del suo proposito di non fare più film di finzione dopo le bellissime riflessioni recenti del mestiere delle armi e di 100 chiodi. e firma ora questo film talmente ideale da rasentare l'astrazione. Un cinema intellettuale nel senso più alto del termine. Le collaborazioni con Monsignor Ravasi e Claudio Magris nobilitano gli scarni dialoghi del film. Ma insieme un cinema tremendamente visivo, dove ogni immagine è costruita al di fuori di qualsiasi contatto con la realtà, tanto che la chiesa è stata completamente realizzata all'interno del Palasport di Bari, per dire coerentemente con l'opera del maestro che sono i dubbi a fare la fede. La vera fede, e potrei aggiungere la cultura ideale, è quando il peso dei nostri dubbi è superiore a quello delle nostre convinzioni. Ossia, per essere davvero uomini di fede bisogna avere davanti un muro di dubbi. Solo allora puoi essere un uomo di fede, se no sei qualcuno che ha dato fiducia, a volte inconsapevolmente sbagliata, ad altri che usano la tua fiducia. Mai delegare, mai. È comodo affidarci a un'ideologia, a una religione, tanto sono gli altri che pensano per noi. Dobbiamo pensare in proprio. Questa è la libertà. La natività in chiesa, la figura di una Maddalena di colore, il monologo del povero venditore di libri, la religiosità di Olmi, mai troppo allineata alla dottrina cattolica, si esprime attraverso momenti quasi teatrali, parabolici, che fanno del film un apologo sul senso della solidarietà al tempo del relativismo. Più le chiese, le case e noi stessi ci liberiamo dagli orpelli, anche a volte considerati importanti e nobili, come una certa cultura che è orpello e non cultura. Se non ci liberiamo di questo, come possiamo entrare in relazione con gli altri? Saremo soltanto delle maschere e quindi saremo uomini di cartone. Ecco come la Chiesa, quando, come dire, è casa senza domandare a nessuno che vuole entrare, chi sei, da dove vieni, come la pensi, sei dei nostri o sei di qualcun altro. I protagonisti, Michael Lonsdale, grande nei panni del vecchio prete orfano di Dio, in piccoli ma efficaci cameo ci sono anche Rutger Hauer, il santo bevitore di qui sopra, e Alessandro Haber. Al di là di alcune semplificazioni di qualche didascalismo, Il villaggio di cartone è un film che rimane dentro lo spettatore ben oltre i titoli di coda, forse grazie anche a quella frase che li chiude: o noi cambiamo il corso della storia o sarà la storia a cambiare noi. E questo era quindi Il villaggio di cartone, il film di Ermanno Olmi nei cinema italiani da questo fine settimana. Abbiamo dato un'occhiata prima alla classifica del cinema, dei film in Italia. Adesso diamo un occhio invece a quello che succede oltreoceano, che è sempre una cosa interessante, perché ci troviamo film molto spesso prossimi poi ad arrivare anche in Italia. Partendo dal basso troviamo Killer Elite di Gary McKendry al decimo posto, ma ormai quasi a fine sfruttamento, così come Contagion di Steven Soderbergh, passato al Festival di Venezia, che appunto in America ha fatto quello che doveva fare, ormai quasi fuori classifica. New Entry all'ottavo posto con Sex List, commedia di quelle che ormai spopolano, almeno in termini numerici, poi non sempre in termini di incassi. C'è al settimo posto Abduction, e qui siamo al tema degli extraterrestri che si prendono qualcuno di noi. Jim Sheridan, un regista di grande talento, firma Dreamhouse, che è al sesto posto, e poi salendo al quinto troviamo un'altra nuova entrata, Courageous di Alex Kendrick. Al quarto posto un'altra nuova entrata, ma gli incassi sono sempre intorno agli 8 milioni, quindi sembra quasi questo l'entry level ormai di un film medio americano, che si chiama 50 cinquantesimi, lo dico in italiano, di Jonathan Levine. Al terzo posto il grande successo di questo inizio di autunno o di fine estate per gli Stati Uniti, Il Re Leone, la riedizione del Re Leone in 3D nei cinema americani, arriverà anche in Italia, quindi preparatevi, perché qui c'è un pubblico che è quello dei bambini di oggi che non l'hanno mai visto e di quelli di ieri che l'hanno visto e lo andranno a rivedere in 3D. Secondo posto per il Moneyball di Bennett Miller con Brad Pitt, e al primo posto in classifica, pensate, c'è L'incredibile storia di Winter il Delfino, un altro film in 3D assolutamente assolutamente per ragazzi, firmato da Charles and Martin Smith, che ha incassato in questo weekend 14 milioni e mezzo. Sono bastati per essere primi in classifica, il che ci fa pensare che in America non sia stato il weekend più difficile della stagione cinematografica. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, terza parte, ancora due film, dicevamo, tra quelli che abbiamo scelto, riepiloghiamo anche gli altri, di cui non parleremo per ragioni di spazio, ma anche di scelta nostra. Ex Amici come prima, Abduction, abbiamo detto, abbiamo visto in classifica negli Stati Uniti, arriva questa settimana anche in Italia, per cui per gli amanti di una certa fantascienza la cosa può funzionare. L'amore fa male, un altro film nostrano, diciamo così, che arriva nei nostri cinema, con Stefania Rocca e Nicole Grimaldo, firmato da Mirka Viola. Questi appunto sono altri film, altre proposte di questo ricchissimo, anche troppo ricco, fine settimana al cinema, che vede arrivare nei cinema, nelle sale, anche un personaggio epocale della letteratura di tutti i tempi come Jane Eyre. All'inizio fu Charlotte Bronte, poi anche in tempi recenti fu Franco Zeffirelli, ma insomma ce ne sono state tante anche di versioni cinematografiche di questa eroina, la si può chiamare eroina, chi lo sa, ma sicuramente un personaggio femminile di grandissima forza, che dalle pagine scritte è arrivato appunto spesso al cinema. Adesso con Boris Sollazzo capiremo con quali risultati questa volta, prima però ascoltiamo una clip. Jane Eyre, lo sai dove vanno le persone malvagie dopo la morte? Vanno all'inferno. E cos'è l'inferno? Un pozzo pieno di fuoco. E ti piacerebbe cadere in questo pozzo e bruciare per l'eternità? Bambine, vi esorto a negare la mano dell'amicizia a Jane Eyre. Visto così e sentito così, sembra quasi più un film del Dario Argento dei tempi migliori che non appunto quest'epoca, ma chissà se questo spirito gotico ammanta tutto il film, che ha un cast sicuramente di grandissimo livello, cioè sono gli attori del momento, perché Mia Wasikowska, abbiamo detto, anzi lo diremo fra poco, protagonista anche dell'Amore che resta di Gus Van Sant, che per un cortocircuito della distribuzione italiana esce nella stessa settimana. Quindi due film con questa ragazza che è stata l'Alice nel Paese delle Meraviglie di Tim Burton. Fianco a lei Michael Fassbender, anche lui lo Jung del film di Cronenberg. Poi Jamie Bell, l'ex ormai lontano Billy Elliot. Un cast di tutto rispetto. Alla regia Kari Fukunaga, di cui io francamente so pochissimo, spero ne sappia di più invece il nostro Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, hai detto un grande cast, devo dire sono stati anche molto fortunati, soprattutto nei due protagonisti, perché ovviamente, come puoi immaginare, Mia Wasikowska e il buon Michael Fassbender non erano così famosi quando hanno firmato il contratto per Jane Eyre, e adesso si sono trovati davvero, non solo forse i due attori del momento, ma anche i due talenti interpretativi più folgoranti del momento, perché Mia Wasikowska, lo vedremo soprattutto nel film di Gus Van Sant, strapazza i cuori anche del più cinico. Fassbender è un attore dalle doti straordinarie, ormai l'ha dimostrato, insomma. Non è un grandissimo film, non è un film che rimarrà nella storia del cinema, ma a mio parere è un film che si farà apprezzare da molti, perché sono bravi gli attori, la storia è piana, senza essere didascalica e un po' barocca come era quella di Zeffirelli, è dolce per gli occhi e per le orecchie, quindi insomma lo consiglio. Per quelli col cuore un po' più duro, forse no. E beh, questo poi dipende sicuramente dagli ascoltatori. La storia, la ricordiamo, è la solita, insomma, di questa orfana affidata alle cure di una specie di signorina Rottenmeier, che è Mrs. Reed, una zia davvero molto crudele, e che poi qualche anno dopo finirà per vivere in una tenuta di campagna, dove incontrerà questo inquieto signor Rochester. Sentiamo una clip. È un'antica dimora sontuosa, ma d'inverno a volte ci si annoia. Il signor Rochester ci fa visita sempre all'improvviso. Avete uno sguardo molto diretto, signorina Eyre. Mi ritenete bello? No, signore. Avete paura di me? Non ho paura. Non stavo dormendo, so quello che ho visto. Sarà stato in parte sogno, in parte realtà. Conoscete così poco gli uomini. Tenetelo lontano da voi. Stando ai suoni di questo film, sembra mettere un mantello di gotico, quasi gore, nella storia, che sembra assumere una versione, diciamo così, delle qualità horror, quasi thriller, insomma, horror più pronunciate di sempre nelle tantissime versioni che si sono viste di Jane Eyre. Il il povero americano ha fatto una cosa, a mio parere, a differenza degli altri, l'ha letto davvero il romanzo di metà 800, perché Jane Eyre, non scordiamocelo, al di là della storia che, se vogliamo definirla, poliannesca, insomma, dell'orfana con la zia cattiva, è una sorta di Jekyll e Hyde al femminile. A un certo punto arriva questa Bertha Mason, questa donna pazza che non si capisce se è un alter ego o addirittura un doppelganger di Jane Eyre, e senza alcun dubbio dà al romanzo non solo una versione gotica, ma direi anche dark proprio nel vero senso della parola. Lui lo fa più nell'atmosfera che poi nel racconto stesso. Chiaramente tutto rimane sempre comunque attaccato al personaggio di Jane Eyre, che è il personaggio più affascinante, anche perché questa donna molto moderna, appassionata, decisa, fortemente tenace nel voler affermare anche la propria identità. Però è vero che questa atmosfera c'è. A mio parere comunque rimane una delle migliori, dei migliori adattamenti di Jane Eyre dal dopoguerra in poi. Allora, grazie a Boris Sollazzo per averci raccontato di Jane Eyre. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima, Franco. Ebbene, allora, abbiamo archiviato la quarta proposta di questo weekend. Ce ne resta una, proprio il film di Gus Van Sant di cui facevamo cenno, L'amore che resta. Ne parliamo fra poco. Prima dobbiamo giocare nuovamente insieme con il nostro DVD game, che poi è un Blu-ray game anche questa settimana. Ascoltiamo la seconda traccia del film misterioso. Ah, sì. Brucerebbe, ma non posso attendere il sole. Però lo possiamo anticipare. No. Non contraddirmi, chierico. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Avete indovinato di che film si tratta? Volete provare a vincere il Blu-ray di questo film? Più tardi avrete l'ultima possibilità. Allora, eccoci ancora insieme, questa volta per parlare dell'Amore che resta, il film di Gus Van Sant, che ci riporta in sala un regista al quale siamo molto, molto affezionati, molto legati, perché è un regista che ormai da tanti anni stimola con i suoi film. Tra l'altro uno dei più recenti, il suo penultimo, era stato Milk, quindi anche un film che aveva avuto un grande successo agli Oscar e che adesso torna con questa storia d'amore, di un amore potremmo dire disperato, non fosse che non è vero, disperati forse all'inizio sono i suoi personaggi, i suoi protagonisti, ma proprio nell'amore trovano motivo di voglia di continuare a vivere. Ho conosciuto un ragazzo. Davvero? Sì, al funerale di Chris. Ti conosco? Qui ti conosce qualcuno? Diciamo che è diverso. Può essere un bene. È il quarto funerale a cui ti vedo questo mese, e se ti rivedo in giro chiamo la polizia e faccio avvertire Marcus. Tutti che... Lui è il mio ragazzo, Marcus. Piacere di conoscerti, Marcus. Il piacere è tutto suo, comunque. Eccoli, Enoch e Annabelle. Lui, un ragazzo a dir poco strano, un po' depresso, orfano e arrabbiato, un po' dark. Fra i tanti hobby possibili ha scelto le battaglie navali con il fantasma, avete capito bene, di Hiroshi, un kamikaze giapponese della Seconda Guerra Mondiale, e quello di imbucarsi ai funerali degli altri. È lì che ha conosciuto Annabelle, bella e dolcissima, minata da una malattia terminale, appassionata di ornitologia. Date le particolarità delle loro esistenze, i due si attraggono e si innamorano. Grazie per avermi soccorso prima. Sono Enoch. Sono Annabelle. Conoscevi il ragazzo dell'altro funerale? Oh sì, sono volontaria in ospedale. Forza Riot! Conosci questi ragazzi? No, Hiroshi e io assistiamo. Chi è Hiroshi? È un fantasma. Un fantasma. Lo posso vedere? Perché si veste da maschio? Dice che sei un sacco carina. Non l'ho detto. Grazie, Hiroshi. Paradossalmente sarà proprio la morte, ormai vicina, le vengono dati 3 mesi di vita, di Annabelle, ad aprire alla vita Enoch, che almeno stavolta potrà portarsi via il ricordo dei suoi giorni migliori. Ti va di parlare di Enoch? La cosa è un po' complicata. Mentivo quando ti ho detto che lavori in ospedale. Sono una paziente. È lo stesso. La guarisca. Forse non mi sono spiegato. La guarisca! A livello registico, un compitino, poco più che un compitino per Gus Van Sant. Da uno che ha diretto Milk è lecito sicuramente aspettarsi di più proprio sotto il profilo della regia. Un film, questo Restless, letteralmente senza riposo, che in Italia diventa L'amore che resta, che conferma però la sua fama di regista, capace più di altri di raccontare la gioventù, l'adolescenza, turbata e turbolenta. Giovani che non sono mai vincenti e alla moda, ma sono sempre se stessi, consapevoli a prescindere da quanto siano in grado di accettarsi. È così dai tempi di Belli e Dannati, e poi via via con Elephant, Will Hunting, Paranoid Park. Bravi due protagonisti, Henry Hopper e, come dicevamo prima con Boris Sollazzo, Mia Wasikowska, l'Alice nel Paese delle Meraviglie di Tim Burton, curiosamente nelle sale questo weekend, appunto anche in genere. Una bravura però che ci arriva attenuata da un doppiaggio troppo ovattato che non rende l'intima tribolazione dei personaggi. Poi c'è questo uccello canoro che pensa di morire ogni volta che cala il sole. E la mattina, quando si sveglia, è così sconvolto di essere vivo che si mette a cantare la sua melodiosa canzone. Io canto ogni mattina da quando ti conosco. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea. Siamo alla parte finale, quella dedicata alle visioni domestiche, ai film da vedere in televisione o da vedere in un video. Come sempre noi cominciamo a dare un'occhiata ai palinsesti delle reti televisive della prossima settimana, come sempre rigorosamente in chiaro sulla digitale terrestre, per vedere quali film possiamo andare a spulciare magari nel cuore della notte per rivedere capolavori o anche appunto vederli o registrarli per la prima volta. E lo facciamo come sempre con gli amici del settimanale Film TV. È con noi Nicola Cupperi. Cominciamo subito, Nicola, con il primo film. Abbiamo prima accennato a Drive di Nicholas Winding Refn, un regista che aveva già impressionato qualche anno fa con quest'altro film che si intitolava Bronson. La prima segnalazione è per Bronson, che verrà trasmesso domenica alle 22:40 su Rai 4. Michael Peterson ha due passioni, la celebrità e la violenza. A 19 anni riesce a metterle insieme rapinando un ufficio postale. Viene condannato inizialmente a 7 anni e scopre che menare le mani gli riesce benissimo anche in carcere. Si crea quindi un alter ego ispirato a Charles Bronson, il famoso attore, e diventa il detenuto più famoso d'Inghilterra, prolungando il suo soggiorno a 34 anni di isolamento. Tratto da una storia vera, diretto dal danese Nicholas Winding Refn, che ha ragione, è diventato in ordine di tempo l'ultimo dei beniamini della critica bene europea. Il suo cinema è stilizzato, solenne ed eclettico, spazia dalla camera a mano della trilogia di Pusher all'epica violenta di Valhalla Rising, dai vuoti in attesa di Drive all'iperdrammatizzazione teatrale di questo splendido Bronson. E allora ricordiamo l'appuntamento televisivo con Bronson di Nicholas Winding Refn domenica 9 ottobre, Rai 4 alle 22:40. Invece facciamo un grosso salto nel passato per un assoluto capolavoro, una delle più belle commedie di Billy Wilder, che si intitolava L'appartamento. La seconda segnalazione è per un grande classico, L'appartamento di Billy Wilder, che verrà trasmesso mercoledì alle 21 da Rai Movie. L'appartamento racconta la storia di Sissy Baxter, che lavora in una grande compagnia assicurativa. Per ringraziarsi i superiori e dare una scossa alla sua carriera, Sissy cede su prenotazione il suo piccolo appartamento per ospitare le scappatelle extraconiugali dei dirigenti. Tutto procede per il meglio, finché Sissy non si innamora dell'ascensorista Fran. Stiamo parlando probabilmente della commedia con la C maiuscola per antonomasia della storia del cinema, scritta e diretta da Billy Wilder, l'austriaco trapiantato in America che ha portato il genere a vette di eccellenza mai più raggiunte. Una commedia feroce e umana con un Jack Lemmon mostruoso e una Shirley MacLaine adorabile, entrambi incredibilmente snobbati agli Oscar del 1960. E allora ricordiamo l'appuntamento, L'appartamento di Billy Wilder è mercoledì 12 ottobre su Rai Movie alle 21. Grazie Nicola. Ciao Franco, grazie mille e ci risentiamo la settimana prossima con le segnalazioni di Film TV. E allora appuntamento fra 7 giorni con gli amici del settimanale Film TV, che come sempre ci fanno un po' da ciceroni nei palinsesti televisivi di cinema della settimana. A questo punto siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del Blu-ray Game di oggi, sentiamo. Non ho mai combinato molto nella mia breve vita miserabile, c'è del vero, sì, ma porco cane, tutti diranno che Scram è stato baciato da una vera sirena! Lasciatemi! Avete capito di quale personaggio, di quale film si tratta? Titolo completo, mi raccomando, alla Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Ovviamente sveleremo tutto la prossima settimana, come facciamo adesso con il film di 7 giorni fa. Le vite umane dipendono dal vostro silenzio. Credete di poter resistere alle loro torture, ma voi non sapete. Loro fanno diventare vigliacchi anche gli eroi. Non siamo degli eroi. E questa inflessione tedesca doveva aiutarvi. In realtà pochi hanno indovinato la scorsa fine settimana questo straordinario capolavoro della storia del cinema, non solo italiano, ma anche di tutti i tempi. Stiamo parlando di Roma città aperta, lo hanno invece indovinato Laura Cipriani di Padova e Giampaolo Gallini di Roveleto di Cadeo, provincia di Piacenza, che riceveranno a casa la versione appunto in alta definizione di questo film, che torna in videoteca proprio vestito a festa con le migliori possibilità della tecnologia di oggi. E proprio per capire che lavoro è stato fatto su Roma città aperta, noi siamo in collegamento con il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Beh sì, in effetti il capolavoro di Rossellini arriva in questa versione in alta definizione, restaurato, un'opera che ahimè mostra comunque gli anni che gravano sulle spalle, una pellicola che non dimentichiamolo, venne girata con mezzi di fortuna e veramente poco negativo. Il Blu-ray offre sicuramente la possibilità di visionare il film al meglio delle possibilità, c'è parecchia grana, l'audio Dolby monofonico, due canali sicuramente di accettabile resa. Sono molto interessanti gli extra perché c'è un'intervista a Renzo Rossellini, pensieri di autori e cineasti dedicati al film, un intervento di Aldo Fabrizi, immagini di Rossellini in visita alle location del film e per chiudere sicuramente molto interessante il contesto storico del film con immagini d'epoca e documenti d'epoca. E allora questo per quanto riguarda Roma città aperta, quindi, che arriva in Blu-ray, e adesso invece andiamo a recensire un altro film in alta definizione, e lo faccio con un quintetto che sembra quasi la squadra dei Los Angeles Lakers dei tempi belli, ma Bruce Willis, Morgan Freeman, Ellen Mirren, John Malkovich, Mary Louise Parker, un dream team vero e proprio al servizio di un film d'azione con grande ironia che si intitola Red. Era carina l'idea che non fosse reale, mentre adesso sono una fuggitiva, la CIA mi vuole uccidere e mi devo nascondere in un buco. Sai, mi innamorai di un agente una volta. E che è successo? Io ero all'MI6 e la relazione non fu ratificata. E quando fu scoperta fu messa alla prova la mia lealtà e mi venne ordinato di ucciderlo. Era un test. E tu che hai fatto? Gli ho sparato 3 pallottole al petto. Frank Moses è un agente operativo della CIA che vive una vita da pensionato più o meno noiosa, almeno fino al giorno in cui un comando non tenta di ucciderlo e ben presto rimarrà coinvolta anche la giovane di cui si è innamorato. Rendendosi conto che è compromessa l'intera vecchia squadra di agenti segreti, Frank raduna i compagni di avventura di un tempo nella speranza di capire chi e perché li vuole eliminare. Da un fumetto DC Comics, una commedia ricca d'azione e ironia, con un cast assolutamente formidabile. E in arrivo quindi da Medusa Film Home Entertainment, l'uscita DVD e Blu-ray sono entrambi ottimi, con il disco alta definizione a farla da padrone per qualità, sicuramente presenti molto interessanti rispetto al DVD, le due tracce di TS ad alta risoluzione italiano-inglese. Per gli extra sono disponibili vari approfondimenti sulla lavorazione con il Blu-ray, che in più consente di visionare il film seguendo i ciak della lavorazione. Adesso vogliamo parlarvi di un documentario. Non è una cosa che facciamo spessissimo, ai noi, perché lo vorremmo fare anche con i cortometraggi, ma insomma, come vedete, sempre l'ora passa molto in fretta e la nostra principale vocazione è quella di dirvi cosa andare a vedere in sala al cinema. Però c'è davvero un documentario che merita di essere recuperato in videoteca, anche perché questo al cinema in Italia non c'è finito. Stiamo parlando di Restrepo, documentario molto recente, candidato all'Oscar, vincitore del premio della giuria al Sundance Film Festival di Robert Redford del 2011, un film che segue da vicino, bracca quasi, un plotone in una delle più pericolose, un plotone americano ovviamente, in una delle più pericolose zone dell'Afghanistan. La paura c'è sempre, specialmente di notte, quando non vedi cosa arriva. All'inizio qui avevamo solo 14 ragazzi. Non ci voleva molto. Con poche armi automatiche potevano farci fuori tutti. Potevano facilmente salire da un lato, affiancarci e fare piazza pulita. Nessuno ti aiuterà. Sei nella terra di nessuno. Restrepo è un vero documento di guerra realizzato da due giornalisti che hanno seguito la vita di soldati dell'esercito degli Stati Uniti di stanza per un anno nella valle Koregal, la più pericolosa dell'Afghanistan. documentario coinvolgente che ha saputo catturare le difficili giornate vissute da giovani che hanno prestato servizio in un avamposto sperduto nella cosiddetta Valle della Morte. Da Cine Hollywood l'edizione DVD, ma c'è soprattutto il Blu-ray che consiglio vivamente, offre grandissima qualità per le immagini e, contrariamente tra l'altro a quanto segnalato su retrocopertina, ci sono ben due tracce Dolby ad alta risoluzione, italiano e originale, purtroppo non sono presenti extra. E allora grazie Claudio Poffi e ci risentiamo qui alla Rosa Purpura fra 7 giorni per parlare di DVD. Un saluto, a presto. Abbiamo seppellito Claudio Poffi e i suoi saluti sotto la nostra intersigla, ma non fa niente, Claudio è un amico e ci perdonerà. A questo punto noi siamo arrivati in fondo alla nostra corsa, alla nostra puntata della Rosa Purpurea. Solo un occhio a vedere che cosa succede la prossima settimana, perché sarà una settimana meno densa in termini numerici, ma assai di più in termini di impatto dei film che arrivano, perché arriva Cowboys and Aliens, film che è passato nella sua prima europea al Festival di Locarno, Jon Favreau che dirige, attori che sono Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford, Sam Rockwell, ce n'è di tutto per questa sorta di cowboy contro indiani che è invece cowboy contro alieni, film di cui si è parlato moltissimo e che finalmente arriva in sala, probabilmente a prendersi il primo posto in classifica, a mio modo di vedere conteso da un'altra grande uscita della prossima settimana che sarà This Must Be the Place, il film americano di Paolo Sorrentino con Sean Penn, istrione, grande protagonista, Paolo Sorrentino che sarà nostro ospite con un'intervista esclusiva qui alla Rosa Purpurea. E quindi appuntamento a sabato prossimo alle 18 e per chi ci ascolta in replica la domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.